Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera, bentornati a Etno Chic, mercoledì 28 marzo. Sono Vladimiro, c'è Azule, abbiamo un amico in studio, Hunter, che presentiamo subito. Buonasera Hunter. E buonasera Vladimiro e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Hunter, scrittore, educatore, insomma... Attore soprattutto. Attore. Abbiamo lavorato insieme noi due. Sì, esatto. Diverse volte. Diverse spezzoni di spettacolo. Grande Vladi. Però questa sera non ci occupiamo né di letteratura portoghese o lusofona, ma ci occupiamo in particolare di musica dal Corno d'Africa, giusto? Sì, Corno d'Africa, questo disco che si chiama Sweet as Broken Dates, e che è stato nominato al Grammy Award come album storico, che è uscito a marzo del 2017. Musica del Corno d'Africa, quindi diciamo Somalia e Djibouti, per alcune parti dell'Etiopia, comunque diciamo il gruppo dei Somali in quella regione del continente africano. Ma la cosa interessante è che musica, per alcuni aspetti richiama un po' il world o altre cose, musica degli anni 70, 60, 70, quindi c'è stata questa ricerca di riscoperta di un paese dove una volta si ballava a suon di note, non a suon di pallottole. E quindi questo è il repertorio, dicevi, degli anni 60 e 70, quindi subito dopo l'indipendenza, giusto? Mi pare che... Sì, sì, sì, nel senso che l'indipendenza in Somalia, come anche in altri paesi dell'Africa, era un luogo mentale di grandissima aspettativa, e quindi alle indipendenze pratiche, all'issamento della bandiera, c'erano tantissime canzoni, tantissimi balli, e questo è un momento topico. Dove però noi racconteremo durante la serata che questa musica così viva, così vivace, tuttora, in qualche modo dentro alle parole cantate in somalo, poi raccontava anche qualcosa che poi ha prevalso. E andiamo proprio con questo primo ascolto, che è il 4 marzo, Nadash di... Dico giusto? Giusto, giusto, giusto, Vlad. Thank you. Ed eccoci sempre a Etno Chic a ascoltare questo disco che si chiama Broken Sweetest Broken Dates del musica dal Corno d'Africa, giusto? Giusto. E Antar, quindi queste musiche che comunque riflettono sia un po' la musica che arrivava da varie parti del mondo, come dicevi tu, una specie di world music, no? Ante litteram. Mm-hmm. E anche però si sente molto l'influsso proprio delle musiche autoctone, no? Mm-hmm. Nella modalità, nella ritmica. Certo, perché essendo comunque la cultura somala e quella del Corno d'Africa una zona del mondo proiettato al mare, e quindi ha avuto influenze portoghesi, arabe, indiane, indonesiane, e quindi ci sono una serie di africane, bantù, quindi c'era una mescolanza culturale che era un po' nel retropensiero, non solo musicale ma culturale soprattutto. Erano zone senza confine, no? Oggi noi parliamo e siamo così preoccupati e occupati a dover difendere i confini. In realtà il mondo è sempre sconfinato, soprattutto le culture musicali, e oggi parliamo di musica, però la musica è grande nel mondo proprio perché è riuscita ad andare oltre i confini, a sconfinare continuamente, mettendo intrecci, mescolanze, situazioni, umori, aspettative e dando un'idea di contesti che comunque rappresentavano un mondo. Questo è questo disco, ma la sua fortuna è dovuta al fatto che Ostinato Record, il DJ, che è un DJ mezzo malgascio, indiano, adesso non mi ricordo il nome, è buono che gli ascoltatori poi si vadano a informare, non bisogna dargli troppe informazioni, ma vadano a cercarsi chi è Ostinato Record. E essendo già viviamo in un mondo così mescolato, chiunque di noi è particolarmente mescolato, avendo sentito musiche familiari, no, di vicini somali nel Minnesota oppure a Bombay, e quindi si è posto, perché molta di questa musica, molte di queste canzoni oggi le troviamo su YouTube, perché comunque essendo un paese che ha tanta guerra alle spalle, 30 anni di guerra, ha voluto conservare la memoria anche musicale del proprio tragitto esistenziale. E quindi questo aspetto di mettere insieme ha trovato poi la fortuna, questa combinazione che lui, il DJ di Ostinato Record, ha trovato questo matematico, Jama Musejama, che è addetto culturale, e detto culturale alla cultura somala, è nel Hargeisa, nel Somaliland, e lui ha studiato matematica a Pisa e ha scritto anche dei libri di etnomatematica, e lui è un grandissimo cultore, è un archivista della Somalia quando non era ancora in guerra, e 10.000 dischi loro sono riusciti a tradurre in questo, da prendere da questo per fare questa compilation, e lui gli ha chiesto in controparte di digitalizzare tutto il lavoro. E quindi grazie anche a Jama Musejama e a Hargeisa, diciamo che siccome la Somalia ha tutta una situazione, poi ne parleremo con calma, non voglio prendere troppa parola, voglio farvi sentire il disco, lui è riuscito, come dire, a dare questo materiale musicale che ha una storia, e poi ne parleremo. Prossimo ascolto. Oh, Insomma, sono testimonianze proprio di una cultura, a parte quello che dicevi appunto del gran numero di registrazioni, 10.000 dischi tra gli anni 60 e 70, sono testimonianza di un clima molto vivo. E dicevi appunto, insomma, che non era facile poi, cioè non c'erano etichette indipendenti, non era facile registrare poi queste cose. Non era facile registrare queste cose, ma soprattutto non era facile aggirare la dittatura militare, perché comunque tu sai come capita ai musicisti, gli artisti, comunque avere a che fare con la libertà di parola, avere a che fare con la libertà di pensiero è sempre un rischio che si corre, no? Sì. E quindi c'era anche questo, nel senso che da una parte questi regime di Siad Barre va al governo nel 69, e questa è musica che parte più o meno negli anni 70, 60 c'era, più che altro era una musica che aveva a che fare soprattutto nel periodo dell'amministrazione fiduciaria, però diciamo che la musica si somalizza, diventa molto più africano-centrica negli anni 70-80, però dall'altra parte c'era il tentativo, come dire, di aggirare la censura, c'era il ministro dell'educazione, il ministro della cultura, il ministro della propaganda che andava a vedere i testi, andava a vedere un po' le parole e quindi c'era proprio il tentativo continuo degli artisti di aggirare, no? Perché la cosa interessante è che negli anni 60 e 70 c'era questa condizione paradossale che andava a braccetto, no? C'era un rinascimento culturale legato alle indipendenze, ancora, certo, come dire, alla voglia, e dall'altra parte a una repressione, però, no? E quindi repressione e rinascimento. Repressione perché questo rinascimento portava istanze di libertà e quindi portava voglia, proibito proibir, dicevano in Brasile, no? Quegli anni là, in qualche modo, sostanzialmente, no? E dall'altra parte, però, c'era c'erano le dittature militari che volevano tenere, congelare tutto, e quindi vedevano ogni cosa e ogni pericolo. Ma cosa vuol dire? Che una delle cose che è venuta fuori da questa compilation, che dicevano che per alcuni aspetti questa musicalità richiamava un po' il reggae, una cadenza, cosa. Che poi la cosa interessante è che proviene da Danto, questa parola somala, no? Danto, che vuol dire resistere, no? Resistere. Ed era una parola che aveva a che fare non solo con la resistenza degli anni 60-70, ma aveva a che fare con un po' la storia di quella zona lì. La storia di quella zona era una storia comunque coloniale, perché questi paesi erano indipendenti molto prima dell'Ottocento, cose varie, ma poi sono diventati paesi colonizzati, e nel periodo in cui c'era la colonizzazione c'era il tentativo anche, soprattutto il Danto era proprio un canto ballo che soprattutto si ballava sui cavalli per caricare le truppe, e soprattutto i dervisci di Mohammed Abdul Hassan, che è stato un grandissimo libertador, come per l'America Latina può essere stato Bolivar. È stato uno che ha cercato di combattere la colonizzazione italiana, la colonizzazione francese, la colonizzazione inglese, e quindi è stato un personaggio, e lui aveva i dervisci, e questo Danto, che era legato moltissimo alla tradizione culturale della resistenza dei dervisci, ed era un modo per caricare le truppe, non con l'alcol, non con le droghe varie, ma con lo spirito di libertà. E questo spirito di libertà, questo Danto, che era una cosa contro il colonialismo, contro le dittature del periodo, in qualche modo col periodo di Siad Barre e col tentativo dei musicisti di trovare delle forme di libertà, aveva trovato dei percorsi nelle parole, nel giocare nelle parole, nel giocare soprattutto nella piacevolezza della loro musica e soprattutto nella capacità del grande respiro che ancora tuttora ne godiamo. siamo sempre No Chic, Radio Città del Capo, 94.7, 96.250, Antar. E queste cose, questa musica qua oggi fa una fatica a vivere sotto i regni degli Al-Shabaab, di Boko Haram, di questo fondamentalismo religioso. Poco prima di arrivare qua, quando ero sul 20, perché sono un pop, io sono proletario, e mi leggevo un articolo, un'intervista a Tariq Rahimi, per me è uno scrittore notevole, Afghanistan, perché pensavo alla sfiga che abbiamo a avere passaporti sfigati come quello somalo. Ad esempio, somali possono entrare in 54 paesi. L'ultimo paese mi ha colpito, l'ultimo paese è l'Afghanistan, dove può entrare con un passaporto afghano, può entrare in 48 paesi nel mondo. E io mi sono detto, ma la cazzo, quanto è difficile muoversi. E così viviamo in un mercato globale dove tutte l'avocado, il mango, le cose girano così tanto, le persone fanno una fatica terribile a muoversi quando hanno e nascono in certe zone, e poi, è una sfortuna, e soprattutto se non sono proprio. No, volevo solo, se non sono abbastanza ricche, bravo, è bravo, e la cosa perché che ci sono sempre delle eccezioni, è certo, noi stiamo parlando di gente normale, no, perché comunque se uno anche è nato in Puglia o è nato in Calabria, che poi non si sa beh, è quanto Italia, e però per esempio io sono di origine anche calabrese, loro dicono sono Calabria Saudita, e però ad esempio tu puoi girare tranquillamente anche con 50-60 euro in tasca, così. Invece un somalo, se non dimostra di avere, un afghano, no, questa cosa mi veniva in mente, no, al di là di questa battuta, questo gioco che abbiamo fatto con Vladimiro e con la nostra cara amica presente, e mi veniva in mente perché questa musica qua in realtà rappresenta anche un periodo di libertà di corpi, no? Libertà di corpi, la musica nelle discoteche. Mi ricordo ancora, perché io ero venuto poi via per studiare, però mi ricordo che comunque le donne vestivano con i pantaloni, con le gonne, e non dovevano essere troppo coperte, non dovevano, e questa cosa mi aveva colpito di Tariq Rahimi, che diceva lui degli anni 70, diceva: mia sorella era una femminista, l'altra sorella più piccola andava in giro con le minigonne a Kabul. E questa cosa qua esisteva anche in Somalia, e questa musica qua in qualche modo la rappresentava. Quando mi capita di fotografare e di riprendere quella fotografia di quell'epoca lì, queste canzoni erano sempre nelle discoteche di alcuni alberghi, o nelle discoteche vicino al mare, c'era l'Oceano Indiano, e a volte c'era questo albergo grande che si chiama L'Uruba, dove sentivi negli scogli questa, quando uscivi fuori, questa cappa fuori, andavi fuori a fumarti una sigaretta o a berti qualcosa, perché dicono che nei paesi musulmani non si beve, ma in realtà si beve, e come si beve, a volte di nascosto, però si beve molto, e ti colpiva quando uscivi questa brezza, cose varie, e le ragazze erano vestite come si sentivano di vestire, e questa musica in qualche modo echeggiava in quest'area con la Croce del Sud. Ed era un grande senso di libertà, un senso di libertà che oggi noi rimpiangiamo. We'll be right back. sarero adna hai sukai larine uruya hai inda hai gonur kai nur kai tuy dukh sarero adna hai sukai larine uruya hai Stiamo un po' ripercorrendo questo percorso musicale attraverso la musica somala degli anni 60-70 per parlare anche un po' della Somalia, della sua cultura. E Antar, adesso ci parli anche di un autore somalo piuttosto importante, uno scrittore di cui ci sarà a breve una presentazione anche qui a Bologna, giusto? Giusto, giusto, Vladi. No, il 6 maggio al MET in via Gorki 6 presentiamo questo saggio di Lorenzo Mari, un ricercatore italiano, Forme dell'Interregno, il titolo è così, Past Imperfect di Nureddin Farah tra letteratura postcoloniale e world letteratura. Nureddin Farah è tuttora vivo, è un autore molto importante, ha quasi 80 anni, è una persona che degli anni 40, lui è stato uno dei primi oppositori politici. Non ha mai fatto politica, ma ha fatto letteratura. Se fosse rimasto in Somalia ai tempi di Siad Barre sarebbe finito in carcere. Lui ha passato tutta la vita diasporica, attualmente vive tra Minnesota, dove insegna, è un professore universitario, e Johannesburg, è in Sudafrica. E noi presentiamo questo suo lavoro sui suoi libri. Lui ha scritto un libro che si chiama Map, pubblicato in italiano, saranno 8 libri che sono stati pubblicati. Parliamo di lui perché volevamo un po' mettere in focus, io sono di origine somala, quindi sono abbastanza interessato anche sulla Somalia, ma al di là del fatto che sono di origine somala, penso che comunque a volte parlare di paesi che non sono così presenti nei nostri giornali è un modo molto interessante di pensare ad altro, di ossigenare la propria testa. Sì. Anche perché molto spesso magari non se ne parla, però prima o poi se ne parla, e magari anche confrontarsi con altre realtà ti dà delle chiavi su quello che succede non solo da noi, ma anche insomma, a livello internazionale. Insomma, in realtà poi nel nostro universo interculturale e globalizzato non si può prescindere da quello che succede in qualsiasi parte del mondo, a meno che non parliamo di un'isola deserta, insomma. No, questo è sono pienamente d'accordo con quello che dici, Vladimiro. E io sono così, come dire, trattenuto proprio perché vedo che comunque l'onda che abbiamo oggi è un'onda di chiusura, è un'onda di inascolto, una incapacità di mettersi in empatia con gli altri. Pensiamo come se abbiamo diritto di mi ricorda quella frase di Antonietta, Maria Antonietta, quando un suo sottoposto gli dice: guarda, sire, il popolo ha fame e diamo le brioche, è una rivolta? No, è una rivoluzione. Mi sembra che noi siamo sull'onda di qualcosa che non riusciamo più a capire, che cosa sta avvenendo, cosa sta succedendo, quanto questa immigrazione in realtà è un sintomo di qualcosa di profondo. E quindi dare delle chiavi di lettura musicali, letterarie, è un modo di capire anche da dove provengono certi malesseri, cosa è stato quel discorso lì, perché noi non possiamo pensare che quello che sta avvenendo oggi non è frutto di quello che è avvenuto prima. Tutto quello che è avvenuto prima oggi ha prodotto quello che abbiamo oggi, e se noi riusciamo a capire che c'è un collegamento tra quello che c'era ieri e quello che c'è oggi, noi riusciamo a capire anche il senso delle cose, e se noi capiamo il senso delle cose, noi riusciamo anche a farci un'idea di come le cose forse dovrebbero andare, e se noi riusciamo a far capire questa cosa qua, forse pensiamo anche a un mondo più giusto per tutti noi. Thank you. Di nuovo in studio e abbiamo ascoltato un altro brano da questo disco, che è un'antologia appunto di brani raccolti dall'Ostinato Records, appunto di registrazione negli anni 60-70 dalla Somalia. E Antar, adesso leggevi il passo? No, volevo leggervi ma poche cose di questo L'ordine delle cose, tratto dal film di Segre, Andrea Segre, dove c'era un pezzo scritto da Ijaba, che è uscito un librettino, perché parla della Somalia, ma parla di come ci si può sentire, no? Quindi ve lo leggo e quindi farete voi le vostre considerazioni. Legalizzare il viaggio ci permetterebbe inoltre di mettere a riparo anche il nostro futuro. In un momento di incertezza come questo, dove l'Italia e il Sud Europa sono esposti a mille pericoli, ci conviene fare la guerra a chi è più a sud di noi? Che Dio non voglia. Ma se un giorno negassero il viaggio legale anche a noi italiani o europei, che abbiamo per ora passaporti considerati forti, basta un cambio di rotta negli equilibri politici ed economici o qualche sfortunato evento che ci schiaccia verso il basso nella scala dei poteri globali. Nulla di così improbabile, purtroppo. Negli anni 60 e 70 i somali, belli, eleganti, facevano belle feste davanti al mare e all'oceano indiano, con aragoste, branzini. Se qualcuno allora avesse detto a loro, che i loro figli o i loro nipoti avrebbero preso un barcone e non l'aereo, come facevano loro soventemente per andare in Europa o altrove, facendosi ricattare, stuprare, imprigionare, non ci avrebbero creduto. Avrebbero scosso la testa dicendo a noi mai. Avrebbero riso probabilmente. E invece è successo e può succedere. A tutti noi può succedere. Il futuro è sempre incerto, amici miei. Preoccuparsi per i diritti degli altri non è buonismo. per i diritti degli altri, ma significa anche, oltre ad essere un segno di umanità, preoccuparsi dei propri diritti. Dei propri diritti. Perché non si sa a chi toccherà la prossima volta il fatto avverso. Almeno affrontiamolo tutti quanti con dei diritti in tasca. Dateci retta. Ne sappiamo per esperienza, è meglio. 22-24 minuti qui e siamo quasi al momento dei saluti. Hunter. Chiudo dicendo solo due cose e ricordandovi la presentazione del 6 maggio di Nureddin Farah al MET di Bologna, via Gorky 6, e per dirvi che in realtà la Somalia non è così lontana dall'Italia. Perché è stata un'ex colonia, tuttora tanta gente parla italiano, ma la cosa interessante è che nonostante qualcuno pensi che la Somalia è un'isola dei Caraibi, in realtà è poco lontano da qua. Ebbene, e speriamo insomma di riuscire a trovare altre situazioni insomma di parlare di Somalia e non soltanto. Ti ringraziamo molto Antar, vi salutiamo anche voi tutti, saluto Azul. Da Vladimiro una buonanotte, vi lasciamo con l'ultimo brano a sfumare per il giornale. Buonanotte.